Bene, siamo a Visionari, l'appuntamento con il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15. La scaletta della trasmissione di oggi la trovate sul sito internet della radio, ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari. Sono elencati gli ospiti di questa settimana. Le uscite in sale di oggi, giovedì 25 luglio, i nostri suggerimenti, indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda i film sul piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana in giro per l'Italia tra festival, proiezioni e rassegne. Il link per riascoltare la puntata precedente è quelle del 2013 e quelle del 2012. Ridò nuovamente l'indirizzo di posta elettronica, che è visionari@ondarossa.info, e poi per seguirci, oltre alla pagina sul sito internet della radio, c'è anche quella su Facebook di Visionari. Sono. Bene, abbiamo in collegamento Angelo Santovito, co-regista del documentario Come l'abete, sapiente delle cose dall'alto, presentato al Cinema Ambiente, al Festival Cinema Ambiente di Torino. Angelo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie, ciao a tutti. Allora, un po' mi sono occupato di quasi tutti i documentari presentati a Cinema Ambiente, questo l'ho trovato piuttosto curioso, allora raccontacelo un po' tu. In breve il documentario è questo, è la storia, si racconta la storia di una congregazione monastica che nasce mille anni fa nel centro tra la Toscana e l'Emilia, e che fa della foresta che sta intorno al monastero e all'eremo il proprio deserto ascetico. Questo deserto ascetico naturalmente deriva, questa scelta deriva dalla storia del movimento monacale, che arriva dalla Palestina, quindi diciamo che questa congregazione monastica attraverso questa migrazione dalla Palestina verso il nord d'Europa, quindi anche in Italia, non fa che rifare ciò che i monaci in Palestina facevano, cioè creano una congregazione in cui vivono in comunità, e il loro deserto ascetico, che in Palestina era il deserto, diventa la foresta che lo circonda. Oh, come avete conosciuto questa situazione e come avete poi deciso di filmarla in qualche modo? Allora, abbiamo conosciuta grazie l'Istituto Nazionale di Economia Agraria, che è una società che si occupa di foreste e di tutto ciò che riguarda le coltivazioni in Italia, non solo di foreste, ma nelle foreste in particolare, che hanno fatto un progetto con i monaci camaldolesi di digitalizzazione del codice forestale degli stessi monaci, cioè mille anni di storia, cioè a dire il vero 850, perché i monaci hanno chiuso la loro avventura all'interno della foresta con l'avvenuto poi Stato italiano nel 1860 circa. E hanno fatto questo progetto di digitalizzazione del codice forestale, per cui ci sono 850 anni di storia raccontata dai monaci stessi, in cui si descrivono tutte le dinamiche e le azioni dei monaci all'interno della foresta per farla crescere sempre bella e, come dicono loro, rigogliosa, insomma. Angelo, quanti sono i monaci di questo convento e quanto terreno hanno sotto la loro tutela? Ecco, allora i monaci sono praticamente ci sono due luoghi in cui vivono i monaci. Uno è il monastero di Camaldoli, non è un convento, è un monastero, cioè, quale parole io ho imparato da quando ho conosciuto loro di pesarle bene, perché a volte c'è. No, molte cose non si sanno, quindi è bene usare i termini giusti. I monaci stanno in un monastero, a 3 chilometri dal monastero di Camaldoli c'è l'eremo, che è il nucleo storico di fondazione della congregazione monastica camaldolese. Ci saranno più o meno intorno a una quarantina di monaci residenti sia al monastero che all'eremo, e loro non hanno più sotto la loro tutela la foresta, come dicevo prima, perché nel 1860 circa, perché ce ne sono state diverse, lo Stato italiano ha deciso che le congregazioni monastiche e tutte le loro proprietà, compreso il monastero e l'eremo, sì, gli fossero tolte. Sì. Per cui dal 1860 ad oggi i monaci camaldolesi hanno dovuto rivedere la loro mission, diciamo, iniziale, e oggi la gestione della foresta la fa il Corpo Forestale dello Stato, l'ente parco e l'ex comunità montana, oggi Unione dei Comuni. All'interno del documentario che abbiamo fatto ci sono tre personaggi che oggi in qualche modo gestiscono la foresta, che raccontano secondo loro cosa bisognerebbe fare, insomma, e poi in pratica il documentario racconta ciò che hanno fatto i monaci e ciò che oggi lo Stato attraverso i propri enti vuole fare di quella foresta. La foresta che estensione ha? La foresta ha circa 11.000 ettari, cioè una cosa enorme, grandissima. Sì. Ti devi tenere conto che la presenza dei monaci in quella zona di Toscana, cioè tra Firenze e Arezzo, praticamente c'è un'intera valle da Firenze ad Arezzo che è la valle del Casentino, che è una valle enorme, tieni conto che sono più o meno circa 45-50 chilometri tra Firenze e Arezzo. Angelo, materialmente loro come si rapportano all'ambiente circostante, come lo tutelano, e poi volevo sapere quali sono le indicazioni che danno in questa sorta di memorandum? Ma loro vorrebbero, non so, anzi sinceramente abbiamo discusso più volte con alcuni monaci rispetto alla foresta. Loro oggi, i monaci presenti naturalmente dopo circa 150 anni non hanno più le cognizioni tecniche per gestire la foresta. Okay. Hanno però questo 45.000, tu immagina 45.000 documenti scritti in cui si descrive l'azione dei monaci nella foresta, questo tesoro che hanno nei loro archivi è stato digitalizzato, il progetto di digitalizzazione è stato finito, quindi le nostre generazioni, le future generazioni, tutte le persone che si occupano di questa cosa, della foresta, delle coltivazioni in genere, potrebbero benissimo andare su internet oggi e leggere tutto ciò che i monaci hanno fatto all'interno della foresta, le dinamiche, il modo in cui tagliavano e piantavano. Inizialmente loro intorno al 1400 su un albero che tagliavano ne piantavano quattro. Ho capito. Come materialmente, come si sono svolte le riprese e come è costruito il documentario, su interviste e anche riprese del quotidiano? Sì, diciamo che abbiamo come sceneggiatura del documentario abbiamo pensato di suddividere il documentario in varie parti. La prima parte è una parte che riguarda la digitalizzazione, cioè si vede proprio un operatore che digitalizza i documenti antichi. Poi c'è la parte che fa un po' da introduzione, c'è la parte che riguarda i monaci, quindi tutto ciò che è la storia, il percorso spirituale e non solo dei monaci, vita quotidiana dei monaci. Sì. E c'è una parte che riguarda l'azione che ha fatto lo Stato nel 1860 di togliere ai monaci sia il monastero, l'eremo che il territorio. E quindi attraverso questa azione si arriva alla gestione odierna. La gestione odierna, abbiamo intervistato tre responsabili dei tre enti che gestiscono la stessa foresta, che a volte insomma non la pensano esattamente nello stesso modo. E poi si ritorna all'ambiente monacale e alla fruizione della digitalizzazione. Insomma, questo è un po' il concetto, sì, del documentario. Sì, sì. Angelo, dopo questa presenza al Cinema Ambiente di Torino, che vi eseguirà il vostro documentario? C'è anche un sito internet a disposizione per seguire il calendario delle proiezioni? Sì, c'è un sito internet, si chiama www.comelabete.it. Il documentario è all'esame di vari altri festival, alcuni anche abbastanza importanti. Speriamo di avere la possibilità di far uscire il documentario in qualche televisione. Sì. E siamo in trattative, al momento non posso dire con certezza quali siano, però spero veramente che si possa vedere alla televisione presto. Angelo, in chiusura, il titolo? Il titolo è un titolo che si è inventata Monica. Sinceramente il percorso di invenzione del titolo bisognerebbe chiederlo a lei. Però è un titolo che sta all'interno di tutta una serie di cose che abbiamo letto e abbiamo di informazione che abbiamo letto, libri, testi, cose eccetera eccetera dell'ambiente monacale, naturalmente. Bene. L'abete, comunque te lo spiego in modo molto veloce, così, siccome i monaci hanno individuato l'abete bianco come albero che lo portavano i monaci verso verso Dio, sostanzialmente verso l'elevazione verso il Dio, perché l'abete bianco è un albero che può arrivare fino a 40-50 metri ed è dritto come un fuso. Sì. Va verso il cielo, e c'è un passo di una regola scritta da un monaco intorno al 1400 in cui si descrive tutta una serie di alberi e le loro caratteristiche che i monaci in qualche modo dovevano osservare per potersi in qualche modo riconoscere con gli alberi. È come se i monaci diventassero alberi, cioè le virtù degli alberi che erano all'interno della foresta, compreso naturalmente l'abete bianco, venivano osservate dai monaci e i monaci dovevano in qualche modo avvicinarsi agli alberi cercando di usare le peculiarità degli alberi. L'abete è un albero dritto che va verso il cielo, i monaci su quello hanno identificato il mezzo per arrivare a Dio. Beh, insomma, Angelo, una storia curiosa e interessante. Io ti abbraccio, speriamo anche di risentirci presto per delle novità. Grazie, molto gentile, mi ha fatto molto piacere essere da voi. Bene, alla prossima. Grazie, ciao. Angelo Santovito, regista, co-regista del documentario Come l'abete sapiente delle cose dall'alto. E un ben ritrovato a Giuseppe Carrieri, in questo caso regista del documentario In utero Srebrenica. Ci sei, Giuseppe? Ci sono, buongiorno a tutti. Ecco, ci eravamo sentiti per un tuo precedente lavoro, questa volta si parla del dopoguerra, se non sbaglio, sì. Nell'ex Jugoslavia. Allora, come racconta un po' di questa storia, Giuseppe? Noi siamo partiti dalla volontà di raccontare la forza umana di queste donne che a Srebrenica, in Bosnia Erzegovina, ancora oggi trascorrono le loro giornate, diciamo, inseguendo la memoria dei propri figli scomparsi, dei propri cari scomparsi. Quello che era più forte era la loro ricerca delle ossa nei boschi, nei campi, una missione spirituale che porta loro a cercare pace nonostante, diciamo così, la guerra sia tecnicamente finita, ma le sue rovine sono presenti ovunque. Quindi è un film che parla di donne, di maternità e soprattutto che parla dello straordinario amore che queste figure, insomma, in qualche modo ci hanno insegnato e che noi abbiamo provato a trasmettere attraverso il film. In maniera molto materiale, ossia la ricerca delle ossa, e questa però è un'operazione molto molto di memoria e molto importante per quanto riguarda le tragiche vicende di un conflitto. No, sicuramente è un'operazione materiale, ma che noi non abbiamo voluto raccontare tout court, nel senso che abbiamo voluto vedere in questa ricerca di frammenti minimi nei boschi di notte, abbiamo voluto vedere un passaggio in più, una resistenza umana contro la bruttezza e l'orrore che passa attraverso gli occhi di donne che, ripeto, hanno perso tutto, ma che nonostante questo hanno la forza di combattere. Combattono così, con una ricerca che a volte, anzi quasi sempre, non conduce a nulla, ma che è sintomo di una, ripeto, di una straordinaria sensibilità e di quello che è naturalmente il tipico sintomo dell'amore materno, cioè l'unicità. Giuseppe, sono riunite in qualche modo, sono organizzate queste donne? No, noi abbiamo seguito una serie di donne che sono tra di loro sì unite, nel senso che ci sono delle associazioni, c'è un'associazione che in qualche modo porta avanti la loro battaglia, si tratta di un piccolo club tra virgolette, ma quello che fa forte, diciamo, vederle una a fianco all'altra è soprattutto il giorno, come dire, l'anniversario, l'11 luglio di ogni mese, considera che si riuniscono e soprattutto vanno a di nuovo a cercare di seppellire i propri figli, quindi di conseguenza lì c'è, credo, forse uno dei panorami umani del nostro continente, di questo nostro continente un po' così, che ha dimenticato poi i conflitti, che dimentica molto facilmente, uno dei panorami umani più forti che si possano vedere. Ecco, proprio a questo proposito, qual è il loro rapporto in una società post-bellica di cui rappresentano solo una parte in qualche modo? Ma il rapporto che hanno con la società è un rapporto chiaramente una minoranza, nel senso che la società bosniaca, come la società post-jugoslava, ha una, come dire, una forti contraddizioni ancora all'interno, si respirano ancora delle ostilità, anche se di fatti le operazioni diplomatiche internazionali sembrerebbero aver pianificato e sistemato tutto, ma come tu sai bene non sono operazioni che si livellano, sì, a tavolino. La pace non è un gioco e soprattutto la guerra, quando distrugge, non è che poi dopo si può rimettere a posto tutto. Le donne in questo caso sono memoria e dimostrazione che qualcosa è accaduto. Una volta che loro non ci saranno più, c'è il grande timore, io spero che non accada chiaramente per la Bosnia, che qualcuno potrebbe prendere il sopravvento, perché, ripeto, gli equilibri e gli umori sono sempre molto precari da quelle parti. Ecco, proprio a questo proposito volevo chiederti dei giovani, che impressione hai avuto? Ho avuto l'impressione di una generazione che chiaramente non parla della guerra, perché come sempre accade il lutto si elabora in qualche modo anche non svelando, per cui io non ho un'impressione compiuta, perché ho vissuto con le donne, però ho un'impressione di una cara amica e di alcuni cari amici che in qualche modo sono persone brillanti, io ho trovato molto forti, che chiaramente non dimenticano e che secondo me sono portatori, soprattutto se non dimenticano, di una genuinità e di una come dire, di una ricchezza che è quella tipica dei popoli balcanici, che può far bene e che può portare la Bosnia anche secondo me a vivere una rinascita quale dovrebbe meritare, perché la Bosnia è un paese secondo me eccezionale. Ecco Giuseppe, proprio a questo proposito e anche per chi ci ascolta e per i più giovani soprattutto, parliamo anche di cifre, che dimensioni ha avuto questo disastro? Ma il disastro conta più di 10.000 vittime, ora la matematica in questi casi è poco utile, nel senso che ci sono cifre contraddittorie. Io so che quando sono stato a Srebrenica ho visto un campo di lapidi provvisorie e definitive imbarazzante, per cui credo che, diciamo, che se si vuol fare un numero appunto per la conoscenza, sicuramente si può contare qualcosa del genere, però come sempre le guerre non hanno precisione nelle loro conseguenze, c'è sicuramente una moltitudine di persone, di giovani soprattutto, che non c'è più, una generazione falciata. Quello che per cui più si soffre è, ripeto, questa sterminata montagna di croci, di lapidi e di come dire, resti, che in qualche modo fa capire che le proporzioni sono state immani. Parliamo chiaramente di popolazioni musulmane, ma come sempre in questi casi, anche nel nostro film, il dolore è trasversale, non bisogna chiaramente rendicontarlo per religione, ma rendicontarlo, certo, per umanità. Certo. Giuseppe, proprio dal punto di vista filmico, come è stato questo viaggio? Come si è svolto? ma si è svolto con una produzione chiaramente auto-organizzata. Noi abbiamo lavorato in quattro, io e le mie due figure più vicine, diciamo, dal punto di vista fotografico, più la montatrice che ha seguito le operazioni da vicino. Siamo stati accompagnati da una nostra cara amica che in qualche modo ci ha guidato, soprattutto da un punto di vista umano, ma anche da un punto di vista linguistico, perché come puoi ben immaginare, sì, non è facile dialogare con gente che non parla la tua lingua e che tantomeno non sa neanche l'inglese, il francese o lo spagnolo. Per cui è stata una produzione molto, come dire, coraggiosa, nel senso che nessuno ci aveva considerato, e ho bussato alle porte di qualcuno, si era fintamente interessato. Alla fine io ho deciso di fare da me e ho speso pochissimo, ma non è tanto la spesa che conta, è il fare quello che conta, perché poi se uno non fa non può raccontare. Certo. Alla fine il film è stato premiato in moltissime manifestazioni, ripeto, la gente credeva che noi avessimo alle spalle produzioni televisive, cosa non vera. Per cui la soddisfazione principale è quella di dimostrare che non ci vuole nulla per saper raccontare, perché sono le storie che contano, non i mezzi. Sì, sì. Tra l'altro c'è stato un passaggio televisivo sulla Rai che ha avuto un notevole riscontro. Volevo sapere prossimamente che ne sarà del vostro documentario, Giuseppe. Ma noi siamo speranzosi di poter continuare a raccontare, a mandarlo in giro per festival, ma anche per scuole, per rassegne che possano in qualche modo poi dire e far capire qual è, diciamo, l'entità di questa storia. Ripeto che non è una storia geograficamente circoscritta, non è solo la Bosnia, credo che sia una storia universale perché parla di madri. Credo che la madre in sé è una figura talmente splendida e speciale che tutti dovrebbero in qualche modo dover capire l'unicità di un amore che non si può neanche raccontare per immagini, si può solo evocare. Mm-hmm. Giuseppe, è sempre un piacere, io spero di sentirti anche a distanza più ravvicinata. Ma siamo felicissimi di essere i vostri ospiti, tu sei, ripeto, una delle persone che qui più teniamo nei documentaristi per l'attenzione e la sensibilità che insomma è qui dedicata al programma. Io mando un abbraccio a tutti gli ascoltatori e speriamo, ripeto, di sentirci presto. Ti ringrazio e a presto. Ciao, a presto, ciao Giuseppe. A presto. Ciao, ciao. Giuseppe Carrieri, regista del documentario In utero, Srebrenica. Visionari su Radio Onda Rossa ogni giovedì dalle 14 alle 15. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con noi Antonio Spanò, regista del documentario The Silent Chaos. Giusta la pronuncia, Antonio? Giustissima, Federico. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, un documentario, si parla, abbiamo appena parlato di Srebrenica, si parla in questo caso anche di guerra e di disabilità, vero? Esatto, esatto. The Silent Chaos è un documentario testimonianza che insomma verte sulla guerra civile in Congo che dura dal 96 ormai, raccontata dalla comunità dei sordi di Butembo. Abbiamo fatto una metafora alla condizione dei sordi all'interno della società congolese, dove vengono emarginati, scacciati dalle famiglie, in alcuni casi addirittura bruciati e uccisi. La loro condizione di disagio e di emarginazione totale all'interno della società del Nord Kivu, di quella parte del Congo dove siamo stati noi e dove è stato ambientato il documentario, e la condizione della guerra civile del Congo agli occhi dei media occidentali non viene quasi mai riportata, insomma. Quindi una guerra silenziosa raccontata dai sordi, e quindi ci sembrava perfetto unire le due, sì, i due temi, sì, che sì, vengono, sì, affrontati nel documentario. Ecco, Antonio, proprio a questo proposito, per chi ci ascolta, un rapido cenno alla guerra civile, alle origini della guerra civile in Congo, e poi anche una spiegazione su questo atteggiamento verso la disabilità così feroce. Beh, si parla di intanto la guerra dal 96, dalla caduta di Mobutu. È stato definito dai media internazionali come il fallimento dello Stato, soprattutto nel Nord Kivu, che è la regione est, nella regione dei Grandi Laghi, è la regione che è confinante con Uganda e Ruanda. dal 96 ad oggi c'è un continuo contendersi quel territorio ricco di materie prime che tanto fanno gola agli stati vicini e agli stati dietro, parlo dei paesi occidentali che si muovono dietro Ruanda e Uganda, e quindi il fallimento dello Stato, perché il Congo dobbiamo immaginare che è grosso come l'Europa occidentale e la capitale a Kinshasa, più di 2000 chilometri dal Nord Kivu, quindi manca tutto e non c'è niente, la popolazione è in balia delle milizie locali e degli eserciti irregolari e dei ribelli. Ha una guerra civile che ha provocato più di 5 milioni di morti. Per quanto riguarda la disabilità, comunque parliamo di una società dove ancora la tradizione e le connotazioni mistico-arcaiche sono ben radicate nella popolazione, quindi ancora non, per esempio, se si ammala un figlio, essendo inesistenti o quasi le strutture ospedaliere nella zona, ci si rivolge al guaritore del villaggio o del villaggio vicino. Non ci sono strade asfaltate, quindi passatemi la metafora, comunque un po' come il Medioevo da noi, insomma. Quindi tutto difficile, e quindi questa tradizione perpetrata attraverso l'oralità della cultura Nande, che è la tribù del Nord Kivu, fa sì che una certa sensibilità sia rimasta intatta, quindi verso il diverso, verso ciò che non si conosce, che può essere la tribù o l'etnia che ci circonda o può essere anche un handicap. Antonio, come siete avvenuti a conoscenza di questa situazione e come vi siete avvicinati al problema? Beh, come al solito attraverso incontri casuali siamo arrivati a conoscere siamo stati invitati dal vescovo di Butembo, della diocesi di Butembo, Monsignor Paluku Sikuli, e siamo andati giù con l'intento, l'idea iniziale era appunto riportare una guerra silenziosa, una delle tante guerre silenziose, ce ne sono in corso più di 200 nel mondo attualmente, e arrivati lì il secondo giorno la nostra macchina era rotta e siamo andati a visitare l'unica scuola elementare per sordi e siamo rimasti molto colpiti, molto commossi, e da lì ci siamo incontrati, abbiamo scoperto questa realtà che non ci aveva neanche sfiorato, non ci avevamo neanche pensato ai sordi in Africa, ed erano proprio gli ultimi tra gli ultimi, perché ricordo che è una cultura orale, viene trasmessa oralmente, e chi non sente, chi non può comunicare è tagliato fuori. E questo è il caso dei sordi, però erano anche quelli più desiderosi di comunicare la loro condizione. Siamo arrivati e lì, essendoci una guerra civile, le persone non hanno voglia e non hanno tanto tempo di parlare, e invece i sordi ci hanno colpito perché erano felici proprio di esprimersi e di raccontarci la loro vita, chi erano. E da lì è nato il legame con loro, e il film ci è venuto proprio il soggetto incontro, e niente, siamo venuti così a conoscenza della realtà. Antonio, è stato presentato alla Roma Independent Film Festival, e poi dove sarà possibile vederlo? Avete anche un sito internet di riferimento? Sì, abbiamo www.officenumber4.com, tutto in lettere. Se uno cerca nella stringa di Google Office Number 4 tutto in lettere, escono fuori la nostra pagina Facebook e il nostro sito. Siamo quattro amici, due coppie di fratelli, siamo completamente indipendenti, quindi non abbiamo produzione alle spalle, ci siamo pagati tutto con il frutto dei nostri lavori, chi da commesso, chi da ricercatore e così via, E poi sì, siamo stati a Riff, siamo stati selezionati da Davide Donatello, anche quello è stato un grosso orgoglio per noi. Saremo ora il 29 luglio a Siracusa, abbiamo girato un po', comunque Kiev, saremo a ottobre a Los Angeles, all'Eco Park Film Center e a Città del Messico, domani verrà proiettato in Bolivia, insomma sta girando il film, siamo molto contenti, sta ricevendo un'ottima risposta dai festival e speriamo di averne altri in futuro. Bene. Antonio, io ti abbraccio e spero di risentirti presto. Grazie dell'opportunità di parlare, di essere stati invitati, e a presto, ciao grazie. Antonio Spanò, regista del documentario The Silent Chaos. Con noi Nicola Di Francesco Antonio, regista del documentario Una canzone per il paradiso. Nicola, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti e grazie. Allora, mi era arrivata comunicazione di questo documentario, vista la locandina con i volti di Paolo Conte e Don Gallo, ho detto perché no, sentiamo un po' che storia è questa. E allora raccontacela tu, Nicola. Allora, io era tempo che volevo fare una storia sui cantautori liguri, genovesi, e però non sapevo bene la strada da seguire. Ho avuto la fortuna di conoscere, per motivi personali, Gino Paoli e Don Andrea Gallo, e ho capito subito che queste due persone erano quelle giuste per poter raccontare questa storia. E devo dire che sono entusiasta perché il risultato è più che ottimo. Come hai fatto? Come hai realizzato le riprese? Com'è stata la tua avventura? Allora, le riprese sono tutte le film, che poi non è proprio un documentario, perché è una sorta di documentario, c'è una parte di finzione e addirittura una parte fantastica. È un viaggio un po' immaginario, un po' no, nel centro storico, dove si racconta la Genova di quel periodo e ne sono fuori sapori, odori, e devo dire che è molto suggestivo il tutto. E io devo ringraziare molto questo prete da marciapiede, come amava definirsi, perché lui è stato veramente straordinario, perché lui è anche un grande attore e questo mi ha avvantaggiato e quindi è perfetto, sono stati perfetti questi personaggi per raccontare questa storia. E devo dire che il film è molto musicale, oltre ad essere molto fotografico, perché oltre ad esserci tanti brani un po' meno noti di tutti i cantatori genovesi, le musiche sono poi di Gianfranco Reverberi e del cantatore genovese Settimo Benedetto Sarto. Poi oltre a loro due ci sono altri attori, e c'è Angelo Di Grumo, Alessandro Barbini, Desiree Ceregini, Enrico e tanti molti altri. E io devo dire che sono contentissimo di essere riuscito a fare questo film, perché era tanto che tanto tempo che lo desideravo. Senti Nicola, che città si è mostrata ai tuoi occhi? Allora, è uscita io devo dire che io ho questo rapporto di odio amore con la mia città, come penso che succeda a tutti, e però devo dire che è uscito il meglio di Genova, perché Genova è una città fantastica, però è una città che non regala nulla, è una città che la devi scoprire, la devi andare, devi entrarci dentro al cuore, dentro le vene, dentro l'anima, e se riesci a fare questo e poi l'emozione è fortissima. E com'è stata l'operazione di mettere insieme questi diversi linguaggi, ossia il documentario, la finzione e l'animazione? Questa è la parte fantastica, questa è stata veramente una sfida, perché inizialmente appunto dei collaboratori mi dicevano: guarda che io non so come farai, perché in effetti non è semplice, perché si riesce a creare una cosa che non abbia continuità. Invece io devo dire che per fortuna, per miracolo, non oso dire per mia bravura, e il risultato è uscito, perché la fusione di questi tre generi così differenti ne hanno fatto uno unico, e forse un linguaggio nuovo, ecco, direi questo, un linguaggio nuovo. Nicola, la città Genova ha una grossa tradizione rispetto proprio ai cantautori, ecco, come nasce questa tradizione? Allora, ecco, quello che si dice sempre, si parla sempre di scuola genovese, no, dei cantautori, e in effetti, come dice nel film e come racconta bene Gino Paoli, non era una scuola, perché questi erano ragazzi come potevamo essere noi, ed erano inconsapevoli di andare poi a parare dove sono andati a parare, nel senso che amavano divertirsi, diciamo che cazzeggiavano, si divertivano in questa panchina, in questo bar in via Cecchi, che ha la Foce a Genova, senza avere minimamente idea di fare questo come mestiere. Poi piano piano, un po' per casualità, un po' forse perché ne uscivano dal periodo della guerra, e allora c'era la voglia di rinascere, di rifare, e questo forse da tanta distruzione, e poi è uscito tutta questa cosa fantastica, che io vorrei tanto che uscisse ora, ai giorni nostri, visto che la distruzione bene o male ce l'abbiamo avuta. Sì, sì, sì. Senti, tutto in questa dimensione, qual è il ruolo di Andrea Gallo? Allora, Andrea Gallo fa un po' da Cicerone, fa un po' da Virgilio, accompagna questo, diciamo, questo personaggio che è Alessandro Barbini, interpretato da Alessandro Barbini, lo accompagna nel centro storico e gli dice: qui succedeva questo, qui succedeva l'altro, e in questo, durante questo viaggio succede sempre qualcosa di addirittura di surreale, di fantastico. C'è una scena che io amo tantissimo e vedo che ha un risultato pazzesco, una scena dove muore Vittorio Limonaro nel centro storico, e le prostitute e i transessuali organizzano il funerale, lavorano e il ricavato lo mettono al funerale per fargli dei funerali di torri, solo che la bara non passa dalle scale, perché le scale in queste casette genovesi sono molto strette, e così Don Gallo pensa di calarlo dalla finestra. Quindi c'è questo funerale atipico e suggestivo, surreale, immaginario, che io adoro moltissimo, e vedo che anche il pubblico apprezza tantissimo. La presenza del porto è sempre stata una dimensione centrale, importantissima nella città. È fondamentale, centrale. E quindi è stata, vedo, una esatto, sempre una terra di incontro, di mescolanza. Beh sì, perché Genova, essendo una città di porto, è fondamentale, perché il porto, come tutti i porti, è motivo di arrivo, di partenza. Quindi arrivano nuove culture, vanno via nuove culture, cioè questo incrocio, questo miscuglio, questo movimento è quello che crea questa cosa magica, se si sa cogliere, ovviamente, se non la si vede come un elemento di disturbo. Sì, sì, sì. Nicola, una canzone arricchisce, sì. Sì. E Nicola, una canzone per il paradiso, che percorso avrà adesso? Allora, il 7 maggio è uscito in 30 sale come vento, e il risultato è stato ottimo, sì, buonissimo, le sale sono sempre piene. E io ne vengo da Ischia Global Festival, Film Festival, dove il film è stato premiato come migliore film italiano indipendente. Questa è stata una sorpresa per tutti, perché non ce l'aspettavamo, in quanto il film è autoprodotto ed è fatto con enormi sacrifici miei e di tutti i collaboratori, che io ringrazio tantissimo. E vedo che piano piano i risultati stanno per arrivare. Poi uscirà a settembre il DVD, e poi speriamo in più presto in televisione. Avete un vostro sito internet? Abbiamo, sì, c'è il mio blog, che è facilissimo, è Nicola Di Francesco Antonio, regista cinematografico, e lì ci sono continuamente, aggiornato giorno per giorno, tutte le informazioni del film, dove esce, dove si può vedere e dove poi si potrà acquistare il DVD. Ecco, preciso che tutti i rientri, tutti i ricavi, in parte andranno alla comunità di San Benedetto al Porto, che ora diventerà la fondazione Don Andrea Gallo. Nicola, io ti abbraccio, a risentirci presto. Grazie a tutti voi. Ciao. Arrivederci. Ciao. Nicola Di Francesco Antonio, regista del documentario Una canzone per il paradiso. In collegamento con Andrea Mura, regista del documentario La memoria del mare. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno. Ciao Andrea. Allora, ne è stato presentato a Sicilia Ambiente la quinta edizione, di cui abbiamo parlato diverse volte con Antonio Bellia. Volevo intanto, visto che insomma stavamo parlando di Genova, quindi di mare, restiamo al mare, però ci spostiamo in Sicilia. Dici un po' qual è questa storia, Andrea. Allora, il mio documentario La memoria del mare è una storia che parla di pesca, in particolar modo della pesca artigianale, della pesca tradizionale, quella che si svolge con strumenti quali la fiocina, la lampara, il cianciolo, le nasse, e vuole insomma raccontare quali sono stati i cambiamenti intercorsi in questi ultimi 40 anni in cui la pesca tradizionale sta in qualche modo soppiantata da un tipo di pesca meccanizzata, fatta di reti volanti, pesca quindi con lo strascico. Insomma è un confronto tra due modelli di pesca, uno diciamo ecco sostenibile, compatibile, e un altro che un po' tende allo sfruttamento massimo delle risorse marine. Sì. Per fare questo mi sono servito diciamo del veicolo di un narratore che abita in questo piccolo porticciolo di Terrasini, che è un paese di mare alle porte di Palermo, in cui abita Filippo Castro, che è un diciamo antropologo sui generis, che per più di 40 anni ha visitato e ha studiato i modelli di barche tradizionali, le ha imparate direttamente, le ha prese direttamente dai mastri d'ascia, e si è messo a ricostruirli in modo fedele in scala 1 a 10 con i materiali diciamo idoni e fedeli a quelli originali. Ha costruito più di 200 imbarcazioni che ora stanno in esposizione al museo di Palazzo Domale a Terrasini. Quindi insomma attraverso questa figura di Filippo Castro ho cercato un po' di ripercorrere quella che è stata la pesca tradizionale in Sicilia, e come questa stia poco a poco tramontando e sia praticamente ormai sempre più difficile vedere nei porticcioli siciliani, ma non solo, soppiantata appunto da metodi più efficaci e più allo stesso tempo anche più distruttivi di pesca. Sì, sì. Senti Andrea, qual è stato, a questo punto ti chiedo, visto insomma che si parla di una tradizione millenaria di rapporto, sì, con il mare, il punto di svolta che ha fatto sì che la pesca adesso sia intensiva e distruttiva, qual è stato il momento di passaggio e di rottura? Ma diciamo già dagli anni 50 ci sono stati degli sviluppi della pesca verso la meccanizzazione, con l'utilizzo quindi di motori, insomma quindi l'abbandono dei remi e di una pesca diciamo, a più basso impatto ambientale. Per poi gradualmente fino ai giorni nostri arrivare alla situazione attuale, in cui a dominare la pesca stanno diciamo più logiche di monetizzazione, di capitalizzazione, che non quelle di diciamo una pesca di sussistenza che rispetta però diciamo l'ecosistema marino. Quindi attualmente diciamo, sono riuscito a trovare nel porticciolo di Terrasini, che negli anni 50 contava una delle flotte più numerose della Sicilia, attualmente si trovano solamente pochi pescatori, io sono riuscito a contarne 6, che ancora svolgono questo tipo di pesca tradizionale, quindi è una pesca ormai destinata diciamo al ricordo, allo studio, piuttosto che a un effettivo utilizzo commerciale. Ecco, quindi un tipo di pesca artigianale rispettoso dell'ambiente che sta comunque scomparendo. Ecco, secondo te quali potrebbero essere i metodi per insomma farla sopravvivere questo tipo di esperienza? Ma, se ne esistono, non è detto, insomma, che... Sì, francamente non lo so, è un po' una domanda piuttosto complessa, che forse richiederebbe un esperto di economia della pesca per rispondere. Comunque io ho visto in queste persone che ancora la praticano ancora una grande passione, ancora una grande voglia di andare avanti, davanti alla, diciamo, all'alternativa di poter pescare nei grandi motopescherecci in cui ci si imbarca per 6 mesi e si sta fuori tanto tempo, comunque appunto con la pesca d'altura. Queste persone ancora resistono, c'è una sorta di costante resistenziale, perché comunque mantengono un rapporto più diretto col mare, più rispettoso. Non so poi quale sia la ricetta per continuare a praticare la pesca tradizionale. Mi auguro che comunque queste persone che ho incontrato continuino a farlo, ci sono anche i loro figli che comunque si stanno appassionando e cercano di portare avanti le tradizioni dei genitori, però il futuro della pesca mi sembra piuttosto grigio, della pesca tradizionale, dico. Sì, sì. Comunque nel documentario appunto io cerco di mostrare la figura di Filippo Castro, di questo personaggio che con grande passione e con tenacia da più di 50 anni cerca di recuperare quantomeno la memoria di quel, di, certo, quel tipo di pesca. Certo. Senti, lui dove lavora? Il suo lavoro dove si può visionare? Il lavoro di Filippo? Sì, il lavoro di Filippo. Sì, allora lui abita, lavora a Terrasini, è un insegnante in pensione che svolgeva le sue ricerche durante le ferie estive, girando per tutta la Sicilia con la sua macchina. Mi ha rivelato di aver scassato 3 macchine in questi sui tour siciliani. E dopo appunto questi viaggi, nel corso degli anni, nel corso di questi 50 anni di ricerca, ha costruito più di 200 modelli che sono visitabili e visibili presso il museo Palazzo Domale, sì, a Terrasini. Sì. Senti, invece Andrea, il tuo lavoro dove sarà dopo questa avventura a Sicilia Ambiente? Allora, è stato a Sicilia Ambiente appunto la settimana scorsa, poi domani verrà proiettato al Festival di Frontiera a Marzamemi, poi girerà nei festival. Adesso mi sto occupando della spedizione, insomma, del Doc Lisboa, Festival dei Popoli, ovviamente sperando di poterci partecipare. È un lavoro che sto appunto fatto all'interno del corso del Centro Sperimentale di Cinematografia a Palermo, quindi sto presentato al Cinema de Seta di Palermo ad aprile, quindi è un lavoro, diciamo, abbastanza recente. Mi auguro di trovare una distribuzione soprattutto nei festival, ma anche nelle scuole, e poi chissà, speriamo anche qualche TV che l'acquisti. Stiamo muovendo affinché si riesca a farlo girare. Bene, allora tienici informati, Andrea. Io ti abbraccio, sì, a risentirci presto. Grazie a voi, al pubblico di Radio Onda Rossa. Ciao Andrea, ciao. Arrivederci. Andrea Mura, regista del documentario La memoria del mare, e adesso si parla di festival. Romeo Conte, direttore dell'11ª edizione del Salento Finibus Terre Film Festival a San Vito dei Normanni e Fasano, in provincia di Brindisi, dal 20 al 28 luglio, quindi siamo in pieno svolgimento. Romeo, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti. Effettivamente la tappa di San Vito è finita ieri, San Vito dei Normanni. Oggi ci troviamo nell'alto, proprio estremo Salento, siamo a Savelletri. La prima tappa che stasera proietteremo per l'appunto qui, in riva al mare, bellissimo, una località meravigliosa, e iniziamo stasera il tour nella terra di Fasano. Dimmi tutto. Allora, intanto parliamo delle caratteristiche di questo festival e di quante opere state presentando. Beh, diciamo che stiamo presentando 73 cortometraggi provenienti da ogni parte del mondo, perché il nostro è un festival internazionale. Sì. Già ieri sera abbiamo premiato i primi, quelli della sezione Mondo Corto, della sezione Thriller Noir, Diritti Umani e Animazione. Registi provenienti da ogni parte d'Europa, Inghilterra, Francia e Spagna, c'era anche un italiano, fortunatamente per noi. E qui stasera proietteremo la sessione Corte Italia, poi Relove, e tutto finisce, ecco. Oltre ai cortometraggi, però, volevo spiegarti che quest'anno ho adottato una formula un po' diversa. Abbiamo messo tre lungometraggi di registi che, diciamo che, siccome il nostro festival ha le caratteristiche del cortometraggio, abbiamo fatto capire che alla fine, a forza dai, uno smette di fare corti e comincia a fare lunghi, ecco, una linea di confronto. Senti Romeo, spieghiamo anche a chi ci ascolta la filosofia di questo festival e poi le ragioni del titolo in latino del festival. Perché si chiama Salento Fini Buster, sì. Salento perché siamo nella terra del Salento. Ci mancherebbe. E quando noi abbiamo cominciato a fare questo festival, il Salento ancora, pur che esiste da centinaia di anni, non era diventato di moda come lo è oggi. Diciamo che anche noi abbiamo contribuito a rendere importante il Salento. È chiaro che poi ci sono tante altre attività. E il nostro festival è itinerante. Ti spiego il motivo, perché io sono originario di queste parti e quando ero bambino da queste parti passava un tizio con un vecchio camion, un vecchio furgone, sai, di quelli di una volta, immagina l'uomo delle stelle, per sì, dire, sì, sì, sì, farci sì. Capire bene, e noi eravamo ragazzini in periferia, questo ci tirava giù il telone e ci proiettava Totò, che ne so, Charlie Chaplin, Stanley Ollio, i film sul neorealismo. E noi non capivamo niente, però questa storia, poi lui spariva e andava via. Adesso, dopo tanti anni, dopo 40 anni e passa, questa formula l'adotto anch'io, in un modo diverso, naturalmente con mezzi tecnologici all'avanguardia, e mi piace abbinare il cinema, quello dei contenuti, i personaggi, con la cucina, il mangiare, il turismo, perché tutto... Cioè, bisogna proteggerlo poi il territorio. Certo. E il cinema diventa uno strumento, anzi un veicolo senza ombra di dubbio, un mezzo, diciamo, che porta indotto positivo in tutto il territorio. E di questo devo dire la gente ci gratifica con la loro presenza. Sì, sì, sì, sì. Senti Romeo, la programmazione immagino che sia anche consultabile online in un vostro sito internet. Sul nostro sito www.salentofinibuster.it. Noi quest'anno, come ti dicevo prima, chiuderemo il festival il 28 a Borgo Ignazia, che è il luogo dove è stato girato il film Viaggio Sola, come set cinematografico. Sì. Vedrà quello di Maria Sole Dognazzi, vedrà qui ospiti praticamente tutto il cast. Okay. E devo dire che sarà una grande festa per il cinema. Poi tra gli ospiti Alessio Boni il 27 alla Selva di Fasano proietteremo il mediometraggio di Pippo Mezzapesa di Nuccio Lovero, Yes I Can. Insomma, ci stiamo dando da fare, certo. Non, anche se il sole è cosciente, però ti devo dire che c'è una brezzolina di tramontana che ci leva il dolore del sole o il piacere. Bene. Allora Romeo, buon proseguimento per quanto riguarda questa 11ª edizione del Salento Fini Buster Film Festival. Ci sentiamo presto, spero. Io no, una cosa ti volevo dire. Io ti ho parlato di mangiare, di bere, tutto il resto, ma soprattutto questo è un festival che tira fuori e stana, spero e mi auguro, la nuova generazione del cinema. Certo. Con il nostro festival noi abbiamo curato autori come Matteo Rovere, Andrea Zaccariello, Pippo Mezzapesa, Andrea Costantino e tanti altri giovani registi che ora, viva Dio, hanno realizzato i primi loro lungometraggi. Sì, dunque. Non è soltanto piacere, mare, pizza, fiori e cozze. Sì, anche valorizzazione poi, culturale, insomma. Sì. sì, anche perché questo è un festival che dà meno spazio ai gossip, ai tappeti rossi, ma soprattutto cerca di valorizzare, anche perché poi il regista faccio di professione, il nostro lavoro, e che è molto duro ed è difficile in questi tempi. Bene, bene. Romeo, un abbraccio e a risentirci. Ringrazio anche te e tutti i radioascoltatori, e grazie sempre, ci siete vicini con, certo, con la vostra splendida e magnifica radio. Bene. Ciao ragazzi. Ciao Romeo. Ciao ciao. Ciao ciao. Romeo Conte, e lui era l'ultimo collegamento per comunicare con noi. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più sulla scaletta c'è il riferimento internet sul sito della radio, che è ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari, e poi c'è anche la pagina Facebook. Potete seguirci in diretta radiofonica sugli 87.9 in modulazione di frequenza, ma anche in streaming proprio dal sito internet della radio. Sulla home page c'è l'opzione ascolta la diretta. È tutto, alla settimana prossima.